L'era glaciale, un evento bestiale, nessuno poteva mai immaginare. Tutti gli animali sono pronti ad andare dove la terra ancora offre calore. Il vento che si alza, senti, viaggio tutto, accidenti, solitario e divertente, questo viaggio intraprendente, questo trio improbabile, è qualcosa di incredibile. È l'era glaciale, un evento bestiale, nessuno poteva mai immaginare. Tutti gli animali sono pronti ad andare dove la terra ancora offre calore. È l'era glaciale, un evento bestiale, nessuno poteva mai immaginare. Tutti gli animali sono pronti ad andare dove la terra ancora offre calore. Eccoli qui insieme nel loro cammino, una missione, quella di salvare un bambino. Sui giù per i ghiacciai c'è chi scivola e chi sbanda, c'è la forza con l'unione ma anche tanta confusione. State attenti, sta arrivando, vedi il tempo sta cambiando, il vento che si alza, senti, ghiaccia tutto, accidenti, solitario e divertente, questo viaggio intraprendente, questo trio improbabile è qualcosa di incredibile.